Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Dopo un 2010 disastroso, culminato, come ricorderete, nel peggior mondiale dell'intera storia azzurra, l'Italia stasera apre a Dortmund il suo 2011 con il replay della semifinale mondiale del 2006, lo stesso stadio che proiettò la nazionale di Lippi poi al titolo mondiale dopo la vittoria in finale contro la Francia. È quindi una vigilia che ha notevoli suggestioni, oltre che l'interesse appunto per vedere come la squadra rinnovata da Prandelli, se e come riuscirà a, se non proprio a decollare, perlomeno a dare una sensazione di solidità in casa di un avversario tradizionale e certamente di alto livello, come anche al mondiale si è visto. Allora, la vigilia, partiamo da qui oggi, di alcuni dei protagonisti di stasera. Tocca al CT per primo e quindi Prandelli inquadra un po' questo avversario, la Germania. Conosciamo le difficoltà perché affrontiamo una squadra che è stata sicuramente una delle rivelazioni del mondiale e quindi troviamo una squadra collaudata, una squadra che ha meccanismi, una squadra che è stata brava nel cambiare il proprio modo di fare calcio, è una squadra che non dà tanti punti di riferimento, una squadra che attacca con più giocatori, è una squadra, sia stata una delle rivelazioni, quindi con merito. Non penso assolutamente a nessun tipo di tracollo, perché penso soltanto di poter scendere in campo e di offrire una prestazione importante, perché abbiamo secondo me le capacità per poterlo fare. Poi ovviamente troveremo difficoltà, ma io sono convinto che soprattutto nelle difficoltà che una squadra cresce e deve crescere. Due i protagonisti annunciati di questa partita, perlomeno alla vigilia. Uno è Buffon, che ritorna dopo l'infortunio al mondiale, insomma, dopo il disastro che ne è seguito, dopo la sua lunga quarantena, insomma, la sua lunga convalescenza nella Juventus e in nazionale. L'altro è Thiago Motta, debuttante di lusso e oriundo, se vogliamo chiamarlo così, in ogni caso diciamo un inserimento che va nel segno di una nazionale multietnica, e su questo poi ci soffermeremo più avanti con un interlocutore di alto livello. Cominciamo da Buffon e dal suo ritorno. Sono felice perché dopo, insomma, un periodo molto lungo ritrovo la nazionale, ritrovo un ambiente che mi ha dato molto e al quale ho dato molto, e è un ambiente che col quale spero di togliermi altre soddisfazioni. Cerchiamo almeno noi, ecco, di poter dare un segnale, un'immagine forte, un'immagine da nazione vera, nazione unita, nazione di primo livello, almeno calcisticamente. Avete sentito probabilmente nel giornale radio che ci ha preceduti una notizia appena arrivata in redazione, cioè che Adriano, attaccante della Roma, che è rientrato in Brasile dalla bellezza di due giorni per curarsi la spalla destra operata, si è rifiutato di sottostare a un test sull'etilometro e per questo la polizia gli ha sospeso la patente. È possibile, per non dire probabile, che la nottata in giro per locali di Rio de Janeiro e, insomma, e l'abbondante birra corsa gli abbia suggerito di non rischiare. Con tutto questo gli è stata sequestrata la patente, è stato multato di 400 euro. Non c'è stato il sequestro dell'auto perché con lui c'era una persona ancora in grado di guidare, dice la notizia di agenzia. Torniamo in ambito azzurro e sentiamo per l'appunto la vigilia tutta speciale di Thiago Motta. Dopo tanti anni ho avuto la possibilità di indossare questa maglia. Sono contentissimo, felicissimo, ho riuscito a fare quello che volevo e sono contento per questo. Io solo ho una cosa, che sono nato a Brasile, però di tutto il resto sono italiano, quindi sono contentissimo, come ho detto prima, di essere qua con i miei compagni nazionali. Il resto non lo so come mi vedono. Penso che con il tempo sarò uno in più e con la normalità di sempre, senza nessun problema. Vabbè, comunque stasera il primo test sia di inserimento che di personalità internazionale. Thiago Motta ha già dimostrato di averne nel Barcellona prima e nell'Inter poi. Vediamo la sua compatibilità con gli altri. Ecco, forse questa è la è la curiosità principale di questa serata. Un altro possibile debuttante non partirà inizialmente, perché la coppia d'attacco scelta da Prandelli è Pazzini-Cassano, quindi è la vecchia coppia della Sampdoria, così come la vecchia coppia del Bari, Bonucci-Ranocchia, quella al centro della difesa. Ma insomma, Prandelli ha già lasciato intendere, anzi l'ha detto abbastanza esplicitamente, che la coppia di attaccanti cambierà nella ripresa. Dunque è molto possibile, è molto probabile il debutto di Matri in maglia azzurra, che è un'altra delle, ripeto, non iniziale, ma un'altra delle grandi novità della serata azzurra. Sentiamo Matri. È un effetto strano, perché comunque nel giro di una settimana mi si è stravolta comunque tutta la vita, diciamo, perché sono passato da Cagliari a Torino, sono venuto qua, che penso sia appunto l'obiettivo di ogni giocatore. Spero di non svegliarmi, sinceramente, spero di continuare a sognare. Ho visto che sui giornali fate soprattutto questo paragone adesso, che lui è andato all'Inter, io alla Juve. Però per quanto mi riguarda non scendo sicuramente in campo la domenica, pensando appunto alla sfida con Giampaolo, anzi, perché comunque lo conosco, è un bravo ragazzo. E al di là di quello non mi sembra ci sia niente da confrontare. Ognuno, quando va in campo, pensa a se stesso. Inquietanti come minimo i particolari che emergono dall'indagine sugli ultra atalantini identificati ieri con 104 indagati di ultra. Inquietante perché uno di loro è un sindaco di Gandosso, paese in provincia di Bergamo, un sindaco di 27 anni, sindaco della Lega Nord, così come appartiene alla Lega Nord un assessore regionale lombardo che si chiama Belotti e che sono accusati di eccessi ultra. In particolare il sindaco di questo paesino, leggo da un'agenzia arrivata da poco, faceva da secondo le accuse, secondo le intercettazioni in particolare, faceva da vedetta e diceva frasi ai suoi assistiti ultra, frasi del tipo: ci sono i blu lì dentro, rischio trappola, eccetera. Significava che stava arrivando la polizia e che quindi bisognava usare maggiore cautela. In ogni caso 104 indagati sono davvero tanti, il fatto che tra di loro ci siano anche delle autorità è abbastanza inquietante. Il PM pugliese, leggo sulla Gazzetta dello Sport, dice a proposito di questo sindaco: invece di occuparsi della collettività si preoccupava di tutelare i tifosi. E che genere di tifosi? E allora proviamo a risollevarci il morale con una parte di un piccolo show che ieri Miccoli ha sostenuto davanti alle telecamere. Ricorderete che Miccoli domenica scorsa si era in pratica autosostituito dopo il gol segnato al Lecce, si è molto detto e scritto del suo legame con Lecce. Ieri Miccoli ha rimesso i puntini sugli i, certo, alla sua maniera. Sentiamo. Parliamo seriamente, se Lecce mi voleva faceva qualcosa, come quest'anno, come quando ero alla Juve che sono dovuto andare in Portogallo per giocare a calcio perché in Italia non mi voleva nessuno, capito? I soldi per tanti giocatori, senza fare nomi, che sono passati a Lecce, migliaia, fra argentini, brasiliani, colombiani, sono passati 3 milioni di giocatori, li hanno spesi. Quindi parliamo di fatti. Quindi Mico non ha promesso niente a nessuno. Io l'unica promessa che non ho mantenuto è stata col Birmingham, perché io ho parlato col Birmingham e ho detto: io vengo, se voi mi date 3 milioni di euro all'anno, la casa, e io mi porto con me il fisioterapista mio e il mio preparatore atletico, vengo. Loro, perché pensavo mi dicessero di no. Dopo 2 giorni mi hanno chiamato, mi hanno detto: a posto. Non sapevo che cazzo fare. E io ho detto no, e gli ho ridetto ancora no. Allora l'unica figura che ho fatto e l'unica promessa che non ho mantenuta è stata col Birmingham. Ce n'è un'altra parte ancora per gli amanti del genere, ma mi pare che possa valerne la pena, magari parecchio più tardi. Adesso andiamo a sentire come va sulle strade. In questa amichevole di stasera a Dortmund c'è anche un curioso intreccio di incrocio, se volete, di suggestioni e di proiezioni non soltanto calcistiche. Intanto si gioca sul campo che nel 2006 vide l'Italia vincere la semifinale proprio con la Germania, e quindi cominciare una volta per tutte il cammino finale vittorioso. Ma poi si incontrano due nazionali il cui processo multietnico è molto avanzato nel caso tedesco e direi abbastanza agli inizi nel caso italiano. E allora, quale migliore interlocutore di Aldo Cazzullo del Corriere della Sera? Buongiorno Aldo. Buongiorno Gigi. Allora, tu nel 2006 hai seguito il mondiale molto da vicino per il Corriere della Sera. Nel 2011 hai appena pubblicato Viva l'Italia per i tipi di Mondadori, e cioè questo ripasso approfondito della storia d'Italia nel 150esimo anniversario dell'unità, e ammetterai che, se semplificando un pochino, il fatto che a un mese circa dalla grande cerimonia di festeggiamenti per il 150esimo un altro oriundo entri a far parte dell'Italia, beh, comunque, io non, se non una contraddizione, è comunque un segno di tempi molto cambiati. Ma vedi, io sono convinto che l'idea di Italia non coincide con la storia politica del nostro paese. L'Italia è molto più antica di 150 anni, nasce dalla poesia di Dante e di Petrarca, nasce dalla bellezza dei nostri artisti rinascimentali. Quindi in qualche modo ci si può sentire italiani, anche non necessariamente essendo nati in Italia. Beh, insomma, poi c'è una storia più recente, ha dovuto anche agli inevitabili opportunismi, gli oriundi, certo. Che poi peraltro il nazionale storicamente da Sivori in giù non hanno mai combinato granché, no. Però questo tutto sommato a me fa piacere che ci sia ad esempio Tiago Motta che esordisce, o che ci sia Balotelli. È una cosa, secondo me, che arricchisce l'idea appunto stessa di Italia, che è un'idea universale oltre che nazionale. L'orrendo slogan "non esistono negri italiani" sì. È esattamente il manifesto di un nuovo razzismo che fa pugni sia con l'idea d'Italia nel senso nobile di cui abbiamo detto, ma poi fa i pugni anche con il futuro, perché esistono ed esisteranno sempre di più neri italiani. Non è la limpidezza del sangue che fa un italiano. Certamente no. E la Germania, che da quel punto di vista andò molto oltre l'Italia nelle tragedie degli anni 30 e 40, e contro cui giochiamo stasera, è stata invece apripista in questo senso, no? Battistrada, perché la loro nazionale, che comunque ha fatto un'ottima figura all'ultimo mondiale, se calcoliamo i fratelli Boateng, Khedira, Özil, Klose, Podolski, insomma c'è l'imbarazzo della scelta nel trovare... Era una nazionale straordinaria, perché appunto c'erano i polacchi, c'era Özil il turco, c'erano i nordafricani, c'erano gli neri africani, insomma era davvero una nazionale multietnica. E poi con questo invece tedeschissimo Müller, giovanissimo, certo. La rivelazione, infatti fecero un bellissimo mondiale. Aldo, cosa vuol dire questo? Che anche da questo punto di vista i tedeschi sono più avanti di noi? Ma non necessariamente. Certo, la Germania rispetto a noi ha fatto un'autocritica, una riflessione profonda dopo i crimini a cui tu facevi riferimento. Sì. Noi ci siamo autoassolti. L'Italia non si vergogna del fascismo, non si vergogna di aver originato, inventato il fascismo, non si sente responsabile per la seconda guerra mondiale, ritiene di non aver avuto alcun ruolo, un ruolo del tutto marginale nella Shoah. Ci salviamo aggrappandoci a storie, peraltro vere, peraltro nobili, di ebrei salvati dal nostro esercito o dai giusti italiani. Purtroppo però abbiamo avuto un ruolo gravissimo invece in quegli anni. Siamo stati razzisti, siamo stati antisemiti e non dobbiamo dimenticarcene. Ad esempio, non mi piace il modo in cui, scusa se stiamo un po' sconfinando dal calcio, ma ad esempio il modo in cui raffiguriamo la figura di Mussolini. Ce lo siamo reinventati come un padre affettuoso, come un amante focoso, come un uomo che tutto sommato fino al 38 le aveva azzeccate tutte. Non è andata così. Nel 38 Lucio aveva già eliminato fisicamente la gran parte dei suoi oppositori e aveva instaurato una dittatura. Il fatto che, ad esempio, Roma è una città tappezzata di scritte che inneggiano al fascismo. Le curve negli stadi, certo. Una volta si diceva le curve rosse, le curve nere, sono ormai tutte curve di estrema destra, con alcune eccezioni, tipo gli stalinisti del Livorno, che mi sembrano, certo, non certo additabili come modello. No. E quindi questo razzismo che viene fuori nel calcio è una malapianta antica e va estirpata non soltanto con i manganelli che non servono a nulla, ma va estirpata con il lavoro nostro, con il lavoro culturale e poi anche con delle belle prestazioni di Balotelli o di un oriundo in nazionale. Ragione di più dunque per apprezzare questa svolta di Prandelli, non che Lippi, cioè la sensazione che è rimasta di Lippi a Mauri era che fosse come anche legittimamente, ma che fosse un problema di utilità tecnica, mentre quella di Prandelli dà più l'idea di essere uno sguardo verso il futuro. Ma io anch'io ho questa impressione. Prandelli è un CT molto innovativo, punta molto sullo spirito di gruppo, di squadra. Io ho qualche dubbio su Cassano, nel sì. senso che Cassano, vedi, lo dico da profano, quindi col sorriso sulle labbra, non voglio accamparmi a tecnico, è uno dei giocatori secondo me più sopravvalutati di tutti i tempi. Se Cassano fosse nato a Biella come Gilardino o come me, tu sei di Biella, certo, giuro, non lo sapevo. E beh, non è bello. Beh, insomma, dai, se fosse nato a Biella o ad Alba come me, non se lo fiderebbe nessuno. Cassano è anche un mito, è un giocatore che ha fatto qualche bel gioco di prestigio, ma ha mai vinto nulla in vita sua. Speriamo di essere smentiti e di essere portati per mano da Cassano agli europei e ai mondiali. Senti, facciamo sempre su questo argomento di partenza, diamo uno sguardo alla Francia. Allora, io ho letto negli ultimi giorni delle cose che confesso non sapevo. Per esempio che Benzema, che stasera gioca titolare Francia-Brasile, amichevole del Stade de France, che è un po' la rivincita della finale mondiale del 98, lui ha ammesso candido che lui, ma anche Malouda, nella finale storica del 98, quella che la Francia vinse per la prima volta e unica nella storia del mondiale, lui tifava Brasile. Anelka, che è quello che, insomma, uno di quelli che hanno fatto più danni nello spogliatoio francese in Sudafrica, dice: io non ho mai cantato la Marsigliese e se si fossero sbagliati a chiedere me ne sarei andato. Loro sono oltre l'integrazione, io adesso me lo dici tu, le mie modeste interpretazioni sono che dalla loro ondata di pianoir di fine anni 50, che aveva innervato la nazionale francese, basti pensare a Jules Fontaine, il capocannoniere di tutti i tempi che arrivava al Marocco e che fu un grandissimo attaccante, e loro sono andati avanti, ha metabolizzato eccetera eccetera, e sono arrivati a quella nazionale strepitosa del 98 di grande integrazione. Adesso mi pare che siano già alla fase successiva. Sì, nel 98 c'era un calciatore che non cantava la Marsigliese ed era Carambeu, era Canaco, però gli altri, da appunto Zidane, che è algerino, tutti sanno, di origine algerina, di Kabila in particolare, a Giorgia F, ti ricordi, armeno, ma insomma la Marsigliese la cantavano, nella Francia si riconoscevano e come. E la nazionale che era andata in Sudafrica sembrava fatta da gente che era lì per caso, che magari avrebbe preferito, se ne avesse avuto l'opportunità, di giocare con la nazionale dei loro paesi di origine, e il risultato si è visto, e non era soltanto una questione tecnica, era proprio una questione di gente che non ci credeva, sì. Faceva il mondiale come fatto tecnico e basta, e il mondiale non è mai soltanto un fatto tecnico. Vedo che c'è una tendenza a volte davvero a scegliere, che ne so, il Senegale ad esempio, sì, a scegliere le squadre invece dei paesi d'origine. L'episodio, come dire, fondativo di questa nuova tendenza, che i francesi non hanno mai digerito, fu il Francia-Algeria allo Stade de France, in cui il pubblico, una buona parte del pubblico fischiò la Marsigliese, certo. E non erano algerini, erano francesi, certo, di origine algerina, che non soltanto tifavano per l'Algeria, ma rifiutavano di rispettare, non dico di cantare, ma di rispettare la Marsigliese. Questo è il fallimento di un modello culturale, certo. La Francia ha molto lavorato su questa idea, no? La francofonia, questa idea di inserire l'Islam, le altre culture dentro la cultura francese, commettendo ovviamente degli errori, pretendendo di assimilare cose che non erano assimilabili. Cerchiamo di evitare noi. Ecco, bravo, cerchiamo di evitarlo noi, perché dato che siamo agli inizi, no? come si diceva prima, almeno cerchiamo di non sbagliare. Aldo, perché al di là della lettura del tuo libro, insomma, perché noi in questo anno, insomma, in questi primi mesi in particolare, perché ci può far bene ripassare e rileggere la storia dal Risorgimento alla Resistenza? come... Ah, perché, guarda, il Risorgimento e la Resistenza sono due epopee straordinarie che oggi vengono negate. Il Risorgimento è considerato una cosa da liberali, quattro gatti, e la Resistenza è considerata una cosa di sinistra, una cosa che riguarda i comunisti. Non è andata così. C'è anche il popolo nel Risorgimento, perché nel 1848 insorgono tutte le grandi città italiane e non sarebbero bastati i signori, gli aristocratici a cacciare ad esempio gli austriaci da Milano. E poi perché la Resistenza fu fatta non solo dai partigiani, ma dai militari che rifiutarono di andare a Salò e affrontarono i lager nazisti, fu fatta da sacerdoti, da ebrei, da donne, da popolazione civile. In questo senso io voglio raccontare episodi e storie in cui, che non sono patrimonio di una fazione, ma dovrebbero essere patrimonio dell'intera nazione. Aldo, grazie di questo ripasso, fa bene sempre anche ai calciomani. Viva l'Italia, grazie a te. Grazie Aldo. Non vorrei sbagliare, scrive Michele, ma mi sembra che tutti i giocatori della nazionale tedesca siano nati in Germania da genitori immigrati e nati in terra tedesca. I nostri invece sono proprio oriundi importati appositamente. Michele, non è del tutto vero, perché per esempio i due polacchi, con le virgolette, cioè Podolski e Klose, sono polacchi in quanto tali, sono davvero nati in Polonia, però in tutti gli altri casi che abbiamo citato, cioè Özil, cioè Khedira, cioè i due Boateng eccetera, sono effettivamente nati in Germania, ed è quella effettivamente la perplessità che ho anch'io, nel senso che per Balotelli, che è nato in Italia, nessun dubbio, a patto che poi si dimostri degno della nazionale, e questo è ancora tutto, anzi è sempre più tutto da vedere. Ma i Motti, Camoranesi eccetera, qualche perplessità ce l'ho, sinceramente ce l'ho, perché il rischio, capisco Prandelli, ma insomma il rischio è che anche l'Italia del calcio segua la deriva dell'Italia al rugby, faccio per dire, no? In cui uno va a leggere le formazioni di sabato scorso di Italia e Irlanda, guarda i protagonisti italiani che hanno giocato con l'Irlanda e si mette a ridere, perché questi sono nati in tutte le parti del mondo e sono stati importati, direi, in maniera, non dico volgare, ma insomma in maniera un po' tanto disinvolta. Ha chiamato Agostino da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. No, ho chiamato in quanto anch'io straniero, vivo ormai da quasi, anzi l'anno il mese prossimo faccio esattamente 20 anni che vivo a Milano. E chiamavo anche per quanto riguarda il discorso dei oriundi. Sinceramente io da straniero non sono assolutissimamente d'accordo, non per il fatto che sono stranieri, ma per il fatto quanto loro amano l'Italia, per la quale giocano, perché io ricordo il discorso di Camoranesi. Camoranesi, anche se dovesse giocare 50 anni calcio, non darebbe alla nazionale italiana ciò che la nazionale italiana ha dato a lui, in quanto lui è campione del mondo grazie a quella nazionale lì. E non l'ho mai, dico mai, sentito o visto cantare l'inno italiano. E questo mi sembra molto, ma molto strano, perché se vuoi i benefit dell'essere nazionale italiano è un conto, però oltre i privilegi ci sono anche dei doveri, uno dei quali è quello di amare l'Italia se giochi per l'Italia o no. Ma insomma entro certi limiti, cioè, io non la metterei così con le maiuscole, io mi accontenterei di sapere che uno sa giocare a pallone, che per questo viene convocato, che è particolarmente bravo a fare il suo mestiere, che è corretto, che è per bene, e secondo me possibilmente è pure nato in Italia, ecco, come parametro. Poi tutto il resto, se canta l'inno, se non canta l'inno, personalmente davvero mi riguarda poco. Marco, Firenze, buongiorno. Buongiorno Garanzini, devo dire che ha già detto tutto lei, perché il mio dubbio era appunto sugli oriundi che vengono presi solo per fini utilitaristici in Italia, mentre in Germania sono perlomeno nati o almeno hanno vissuto un periodo di tempo molto lungo nel paese. Io, Balotelli non è oriundo, è italiano, Okaka è italiano, è un Camoranesi. A Mauri lasciamo stare, ma a Camoranesi o Thiago Motta, secondo me con l'Italia non ci incastrano niente. Ecco. Solo pochino, questo pochino, ripeto, c'è un po' di quella disinvoltura, ma questa non è un'accusa a Prandelli, intendiamoci, perché Camoranesi era stato preso prima, ricordiamoci delle... Mi è scappata l'altro giorno, quindi ormai la ridico, delle carte false che Lippi ha provato a fare per Amauri, per averlo in nazionale. Poi le carte non erano affatto false, è un modo di dire, ma insomma di tutto quello che ha provato per. Quindi non è un problema di Prandelli. Prandelli, ereditando una situazione così difficile, avendo visto nel frattempo degli altri modelli come quello tedesco, ha deciso di battere questa strada, che è una strada legittima, condivisa dalla federazione, certamente non gli va dato alcun tipo di responsabilità se qualcuno non condivide, ma ripeto, io credo che si possa anche cominciare così e poi arrivare a quegli eccessi di disinvoltura del rugby, della pallavolo, insomma di tanti, l'hockey non ne parliamo proprio, eccetera eccetera. Ancora un ascoltatore già collegato e poi cambiamo brevemente capitolo. Roberto è in linea da Vicenza, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Dica. Niente, volevo parlare di Prandelli e dire che in un'Italia così che si pone il problema se il 17 si fa festa, non si fa festa, ricordiamoci che allena un'Italia che ha vinto i mondiali con Lippi, quindi ha una squadra veramente scadente, sta facendo quello che può, ha un solo giocatore di livello internazionale secondo me, che è De Rossi, un altro che è una scommessa da riprendere, che è Buffon, e un futuro possibile fuori classe che è Ranocchia. Quindi si può fare magari un'Italia unita partendo da queste poche cose e ricordandoci che una radio seria e per bene come la vostra non può fare un'indagine per sapere, per decidere se che è seria e per bene fino alle 7:15. Vabbè Roberto, adesso lasciamo stare le fasce orarie, la prego, perché questa è una cosa che se sinceramente se la risparmiava preferivo di gran lunga. No, ma insomma io credo che tutte le ipotesi siano valide, tutte le tesi siano difendibili. Ripeto, è una questione di... È una questione di parametri, di certezze, di non so come, dato che mi ha raggiunto nel frattempo Marco Beninazzo, com'è l'orientamento legislativo da parte dell'UEFA, da parte della FIFA? Cioè è chiaro che chi è nato in quella maniera, ma loro sotto sotto, al di là dei regolamenti, sono favorevoli più all'integrazione, Marco, oppure sono più per la, non dico la difesa della razza, per l'amor di Dio, ci ha pensato Cazzullo prima a dire che cosa se ne deve pensare, ma insomma all'identità nazionale. Beh, c'è una precisa indicazione che viene dalla UEFA, che è quella di tutelare i giovani e i vivai. Sì. E quindi la formazione di talenti nelle varie nazionali. Che quei giovani siano nati in quel paese o siano soltanto allevati in quel paese, per l'UEFA conta poco. C'è una normativa comunitaria che invece valorizza le differenze, la circolazione dei talenti all'interno della comunità europea e quindi, voglio dire, c'è una politica molto chiara a favore della integrazione. Quello che la UEFA combatte, certo, è lo sfruttamento dei giovani calciatori e come dire, le campagne di le campagne acquisti di piccoli calciatori, insomma, in Sud America, in Africa, che sono state fatte negli anni scorsi e che assolutamente quelle invece vanno combattute. Vanno combattute le disinvolture, ecco, chiamiamole così. Quella, per esempio, a cui facendo un nostro ascoltatore che manda un messaggio molto spiritoso e dice: nel rugby basta avere il gatto di origine italiana e già sei buono per la, per ecco, la nazionale. Vanno evitate disinvolture ed esagerazioni che poi... Certo. Snaturano insomma il senso della nazionale. Forzature a vario titolo. Marco Beninazzo ha firmato oggi sulla prima pagina del Sole 24 Ore, ed ecco il perché della sua presenza, il seguente articolo: sentenza contraria agli ultras bianconeri, Inter Juventus 12.000-0, arbitra il Consiglio di Stato. Allora, lo leggo visto che è breve o lo sintetizzi tu? No, direi che già che ci hai raggiunto ci spieghi di che si tratta. Beh, una sentenza del Consiglio di Stato che è arrivata ieri e che dà torto sostanzialmente a un gruppo di tifosi juventini che avevano fondato un'associazione Giulio e Mani dalla Juve per chiedere in sostanza la cancellazione delle sanzioni che la giustizia sportiva aveva inflitto alla Juve di Moggi e compagni a seguito di Calciopoli. Si voleva tutelare ovviamente l'immagine della Juve, il decoro della squadra e si contestava evidentemente quelle che erano state le decisioni della giustizia sportiva. Si è arrivati invece a una sentenza di segno contrario, di fatto quelle sanzioni quindi restano confermate, ma restano confermate nel contesto della giustizia sportiva. Quello che il Consiglio di Stato ha detto sostanzialmente è che un gruppo di tifosi non può organizzarsi e chiedere di tutelare l'immagine di una squadra, per quello c'è il club, gli azionisti possono farlo semmai all'interno del club. Quindi la società e non i tifosi o i gruppi spontanei di tifosi. Questo è il primo il primo principio, principio. No? Che... per i tifosi juventini, però, oltre al danno, se danno possiamo chiamarlo, c'è anche la beffa però di dover rifondere le spese processuali. 12.000 euro andranno alla FIGC, 12.000 euro al CONI, e fin qui credo che li pagheranno malvolentieri, ma li pagheranno. Quello che gli scotta è che dovranno dare 12.000 euro anche all'Inter di Moratti, che era parte in causa, e quindi questo 12.000 del titolo, insomma, evoca un po' scherzosamente questo profilo della vicenda. Ah, certo, ma questo come verrà preso? Cioè, sarà un'occasione in più per parlare, visto che domenica c'è Juve-Inter, di parlare di giustizia e orologeria in Italia? Ironia della sorte, dici? Io credo che sarebbe meglio evitare delle interpretazioni così malevole e integrali. Fatto sta che su alcuni blog della Juve mi è stato dato anche dell'interista. Io sì, no, per questo posso querelare, posso querelare, ma il mio accento del Sud Tirolo, potrebbe già far capire, esatto, che non è così. E quindi, insomma, ci tenevo a precisare, insomma, anzi, fatti tutelare la Cavani direttamente. Dal mio punto di vista, se la Juve, come dire, dovesse in qualche modo vendicare questi tifosi sportivamente, certo, domenica sera, e fermare l'Inter, sarò il primo a gioirne a tifare Juventus. Però ecco, io trovo interessante il principio, e cioè il Consiglio di Stato già l'aveva deciso il TAR, come hai raccontato, ma il Consiglio di Stato ha condiviso questo principio, per cui come dire, ciascuno deve fare il suo mestiere, e quindi una società si tutela da sé e non ha bisogno. Giuridicamente questo è importante, anche perché mi risulta che poi queste associazioni vorranno portare questa istanza anche a livello europeo, e la comunità, sì, insomma, lascerei stare, hanno ben altro da fare le istituzioni europee, insomma. In teoria anche quelle italiane, ma insomma. Comunque chiuderei con il passato. Quello che è importante invece, anche perché ci sono ben tre società in Italia quotate, e spesso si sente parlare, no, di azionariato diffuso, azionariato popolare per sostenere i club in difficoltà economica. Ecco, l'interesse collettivo del tifo dal punto di vista giuridico, almeno questo ci dice questa sentenza, non viene tutelato, non è ancora tale da far scendere in campo il giudice amministrativo, insomma, per segnare un punto a favore della squadra. Perfetto, prendo a prestito l'eccellente battuta di Franco Piantanida e dico dunque che sulla base del giù le mani alla Juve, che è la sigla di questo gruppo, io sarei per giù le mani da Bellinazzo, e così almeno per il momento andiamo vi pari. Ringrazio e vi saluto. Ci saluti perché adesso avremo altri ascoltatori che vorranno intervenire in materia. Questo era un siparietto. Se poi ci fossero sviluppi su questa vicenda, e soprattutto se poi ce ne dovessero essere a sorpresa in ambito europeo, come tu stesso ci hai anticipato, visto che ci sarà questo iter o questo tentativo di iter, beh, ovviamente siamo sempre pronti. Probabilmente sì, bisognerà parlare di cose più serie, come le tante penalizzazioni che stanno fioccando ancora in serie C nella Lega Pro per il mancato pagamento di stipendi, insomma, sì, la situazione anche parlare di queste sta diventando pesante. Connivenze e complicità anche di persone che dovrebbero rappresentare la società civile e politica coinvolti in indagini su inchieste ultra a Bergamo. Ma insomma, per questo ci sarà tempo, magari a cominciare a domani stesso. Grazie allora Marco Bellinazzo. Grazie a voi. Noi sentiamo come va sulle strade. Beh, ci sarebbe anche la seconda parte di quello show di Micoli da ascoltare, perché mi pare che ne valga ampiamente la pena. Però ci sono anche molti di voi che vogliono intervenire, e c'è innanzitutto, facciamo così, leviamoci l'appuntamento fisso e rinunciabile, e quindi il 9 febbraio rivisitato da Nicola Filippone. Sembra ieri. 9 febbraio 1930. A Roma, l'Italia di Vittorio Pozzo batte 4-2 la Svizzera in amichevole. Debuttano in azzurro due giovani molto promettenti. Sono Giovanni Ferrari, 22 anni, mezzala dell'Alessandria, e il centrattacco 19enne dell'Ambrosiana, Giuseppe Meazza. Quest'ultimo, in particolare, ostenta una sicurezza impressionante, incidendo sulla gara d'esordio con una doppietta. L'avventura dei due ragazzi in nazionale sarà lunga e lastricata di successi. Ferrari e Meazza saranno grandi protagonisti di entrambi i trionfi mondiali della gestione Pozzo. Beh, se c'è stata una coppia storica per il calcio italiano, soprattutto per quello dell'anteguerra, ma non solo, è certamente quella formata da Meazza e Ferrari, senza la minima ombra di dubbio. Tre ascoltatori e poi un altro po' di miccoli. Luigi da Venezia, buongiorno. Buongiorno, signor Garanzini. Sì, volevo fare un paio di considerazioni veloci sul discorso, su quello che io considero forse uno psicodramma di Fabrizio Miccoli relativamente all'ultima partita di campionato. Sì. E mi spiego, magari le condividiamo insieme se possibile. Sì. Ma io dico questo, ma se hai dei problemi di carattere psicologico, di carattere emotivo nel giocare contro la tua ex squadra perché ti dà delle sensazioni particolari, ma voglio dire, hai tutta una settimana di tempo per parlare col tuo mister e chiedergli di non farti giocare quel tipo di partita, primo. Seconda cosa, a un certo punto della partita arriva una punizione dalla sua mattonella preferita, in cui Fabrizio Miccoli è uno dei migliori specialisti, mi limito a dire, in Italia, certo. Dove c'è la valida possibilità che, tirandola come l'ha tirata, potesse anche far gol, perché per lui sono dei rigori, fai gol e dopodiché te ne vai a testa bassa intristito. Ma allora mi chiedo, ma perché l'hai tirata sapendo che potevi far gol? Allacciandomi, e poi concludo, anche al fatto che non riesco più a capire come mai i giocatori che giocano contro ex squadre o squadre della propria città e fanno gol non esultano più. Mi ricordo sempre un esempio concreto, che era Maurizio Ganz, che giocò nell'Inter, poi andò nel Milan e fece gol in un derby e fece mezzo campo esultando. Ma giustamente, perché si esulta a favore di una cosa che è successa positiva, non si esulta contro qualcosa. Ma ecco, Luigi, volevo sapere con lei. Sì, guardi, io i due primi punti li condivido in pieno, cioè lei ha perfettamente ragione, però ha perfettamente ragione da un punto di vista razionale. Io credo che nel calcio ci sia anche una grande componente di razionalità. Poi, a parte il fatto che poi Miccoli ha spiegato, io ho giocato per rispetto nei confronti dei tifosi del Palermo e per dovere nei confronti della società che mi paga e che mi ha schierato. Poi è vero, come lei dice, che avrebbe anche potuto chiedere di riposare un turno. Però insomma non è molto professionale questo. Io credo che magari Miccoli, io sono per la buona fede, penso che Miccoli si sia sopravvalutato da un punto di vista emotivo, che in quel momento, diciamo pure in trans agonistica, in trans professionale, molto corretta, sia andato sulla mattonella, come la chiama lei giustamente, e abbia incastrato quel pallone nel 7, e che poi una volta riuscitogli questa cosa abbia di colpo gli sia, insomma, abbia sentito il peso del, ma non del dispetto, ma semplicemente del disagio verso non la squadra in cui ha giocato, perché lui non ha mai giocato nel Lecce, credo, ci vorrebbe giocare, o comunque la squadra della sua città. Io sinceramente, tra tutti questi che vanno sotto le curve, che si battono la mano sul cuore, che gli fanno vedere la maglia eccetera, e Miccoli che un giorno invece ha una crisi di fragilità, a me non è dispiaciuta, anzi mi ha fatto una buona impressione. Può darsi che l'età abbia fatto di me un inguaribile sentimentale e questo comincerebbe a essere seriamente un problema. Fulvio da Macerata, buongiorno. Salve signor Garanzini. Dica. Dunque, io volevo spezzare una lancia a favore dei camoranesi, in quanto, intanto, diciamo, l'accostamento con Tiago Motta non lo farei, perché camoranesi comunque è il campione del mondo, ha giocato con l'Italia, con l'Inter, comunque con la Juve, è abbastanza, diciamo, adesso non plausibile. E poi vorrei aspettare una lancia appunto a favore di Camoranesi. Lui, questo ragazzo, a prescindere, intanto con Trapattoni, lei giustamente lo sa meglio di me, ha giocato bene, la campione del mondo, si è fatta la Serie B, comunque come esterno, diciamo, vecchiara, destra, sinistra, giocava anche centrale, ha giocato con l'Italia. Secondo me, io ero contrario a Camoranesi in nazionale, però poi ho visto comunque ha giocato molto meglio. Sì, ma chi ha giocato meglio o peggio, Fulvio, non è questo però il motivo del contesa, a parte che qui non c'era nessuna contesa, era soltanto riflessioni a voce alta e mi sembra anche di tono particolarmente civile oggi, oltre che alto se parliamo di Aldo Cazzullo, ma non c'era nessun giudizio sul giocatore camoranesi o sulla qualità di quello che lui ha dato o non ha dato alla nazionale, era un discorso diverso. Allora, andiamo a sentire, dai, visto che qualche altro ascoltatore lo risollecita. Sentiamo la sì, a parte Marco D'Alessandria che scrive: io ho visto Serena esultare con tutte le sue ex squadre. Serena ha giocato con Inter, Juventus, Milan e Torino, cioè le quattro squadre, ed era suo diritto perfetto fare scene della malavita ogni volta che faceva un gol, non so, con la maglia della Juventus al Torino, con la maglia dell'Inter al Milan o viceversa. È suo diritto, ma è diritto anche di Miccoli invece un giorno di comportarsi diversamente. Io credo che ciascuno debba fare come si sente e l'esultanza obbligata è una delle cose personalmente che più mi dà l'orticaria quando la sento invocare da parte di tifosi e soprattutto telecronisti. Orticaria in piena regola. Dicevo, seconda parte di Miccoli. Siccome sono 15 anni che si gira sempre intorno a sta cosa, allora Miccoli a Lecce non andrà. Sarò sempre tifoso di Lecce, vado in trasferta quando smetto, con i miei amici, se Dio vuole che ritornano, perché ora possono andare allo stadio. Però se se vado in trasferta, però io quella maglia non me la metto, così mettiamo una pietra sopra tutta questa cosa. Non sono stato io che sono andato e ho detto fammi uscire, perché non mi sentivo comunque di dire così. Il mister mi ha visto che mi ero isolato da tutti gli altri, stavo comunque male, stavo dispiaciuto, e ha preferito sostituirmi e far entrare Abel, che poi tra l'altro ha fatto gol. Però io non vedo tutto sto casino su stato sostituzione qua, che poi tra l'altro è andata anche bene per noi, quando magari le 5 volte consecutive che mi ha sostituito e che ho rosicato dopo come un matto, perché dopo 2 minuti c'è stato il rigore a San Siro e nessuno ha detto niente. Beh, insomma, Roberto da Lodi secondo me tira le fila in maniera perfetta, con un conseguente messaggio: personalmente preferisco Miccoli a Ibra, che in ogni società in cui va bacia la maglia e dice che era il suo sogno da bambino. Io bacerei Roberto da Lodi per questo messaggio, giuro. Andiamo a Napoli, dove troviamo Marco. Buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Io volevo fare un passo indietro e tornare un po' alla nazionale. Ho sentito prima cosa dicevate in merito al discorso degli oriundi. Io volevo chiedere anche il suo parere. Io ho la sensazione purtroppo che il nostro calcio si sia, come dire, un po' imborghesito, al di là di quelli che valori tecnici che sicuramente sono mostruosamente calati rispetto a qualche anno fa, la cosa sicuramente dovuta anche a Calciopoli. Però io purtroppo vedo nelle nuove leve, non riconosco quella classe, quel talento di giocatori che magari, come parliamo di difensori, dove storicamente abbiamo avuto sempre una grandissima continuità. E parlo di giocatori come Ciro Ferrara, come Fabio Cannavaro, non a caso no. Tanto per dirne due, Pogliana, no, e Bruscolotti non le sono venute in mente, no? No, no, ma no, io sono un po' più giovane, quindi ricordo Carannante. Carannante, Antonio Carannante, pensi che era anche proprio del mio paese di origine. Marco, mi scusi, ma il tempo sta scadendo. Non, questo è un discorso nel merito, è un discorso di qualità, e discorso di qualità sinceramente non possiamo imputarlo né a Prandelli né a Lippi prima. Insomma, cioè, le scelte possono essere felici o meno felici, ma ci sono le covate, le annate, le generazioni. In questo momento granché da mordere oggettivamente mi pare che non ci sia, e che su questo siano d'accordo più o meno tutti gli osservatori. Roberto Scaltritti in regia, Franco Piantanide in redazione. Grazie, a domani.